e le ha grazia in relazione a Dio. E bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, Ebrei 13, 9. Proyection, nel suo libro Vorremmo vedere Gesù, esprime il seguente concetto, non check. E niente di più importante che capire il senso della parola grazia, sia con la nostra mente sia attraverso l'esperienza. Se manchiamo su questo punto, sbagliamo tutto. E un'affermazione radicale, ma in essa ci è molto di vero per due motivi. 1. Perché la parola grazia è usata 155 volte nel Nuovo Testamento. Non capirla equivale a non ricevere il messaggio che Dio ci vuole trasmettere. 2. Perché l'uomo è salvato per grazia ed è chiamato a vivere per grazia. Perciò, chi non comprende questa verità non può essere né salvato né vivere una vita abbondante e felice. Quindi è più che mai opportuno considerare la grazia in relazione a Dio e poi in relazione al prossimo. Nel Nuovo Testamento la parola grazia viene usata con riferimento a tutti gli immeritati interventi di Dio a favore dell'uomo. Infatti, il vocabolo grazia in greco è charis, che deriva dalla radice char, che indica ciò che produce benessere. Ecco perché dalla radice char derivano le parole favore, ringraziamento, benevolenza, ricompensa, fare un dono gratuito, perdonare, rendere amabile. Leggiamo in Efesini 2, 8 e per grazia che voi siete stati salvati. Quando Paolo dichiara che l'uomo è stato salvato per grazia, egli vuole intendere che Dio, avendo preso atto che l'uomo è irrimediabilmente perduto e, avendo considerato che l'uomo non poteva procurarsi salvezza con nessun mezzo, decise di intervenire progettando un piano. Decise di salvarlo esclusivamente per grazia, cioè senza nessun'opera da parte dell'uomo, una decisione personale di Dio volta al bene della sua creatura. Infatti sta scritto in 2 Corinzi 5, 19: Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Per Dio l'unico modo per salvare l'uomo era dunque quello di non imputargli i peccati commessi, e tutto questo si chiama grazia, cioè dono immeritato. Quindi Dio ha amato chi era peccatore, chi non era degno di essere amato, chi non lo contraccambiava, chi non lo cercava. Rendersi conto che Dio ci ami, malgrado non vi sia in noi nulla di amabile, nulla che sia degno, significa subire un'umiliazione bruciante e una terribile sferzata al nostro orgoglio. E questa è la ragione per la quale è così duro accettare la riconciliazione che Dio ci offre. Prima del dono di Dio, dobbiamo accettare di riconoscerci dei falliti, dei miserabili bisognosi di salvezza. Dobbiamo riconoscerci quali persone che non hanno nessun merito. Così, se alla fine, dopo lunga lotta e per la misericordia di Dio, arriviamo a riconoscere che la sentenza di Dio verso di noi è vera e accettiamo Gesù come l'unica risposta al problema del peccato, diventiamo figli di Dio. A questo punto abbiamo sperimentato la grazia di Dio. Siamo felici perché siamo salvati, perché non abbiamo considerato i nostri presunti meriti, ma abbiamo accettato il favore immeritato e immeritabile di Dio. Essere amati da Dio anche sapendo di non essere amabili non ci ha lasciati con uno spirito umiliato, anzi, ce ne siamo rallegrati e ci vantiamo perché era l'unico modo mediante il quale potevamo ricevere le benedizioni di Dio. Questo comportamento di Dio nei nostri confronti, il suo agire per grazia, cosa ha prodotto in noi? L'amore per Lui. Noi lo amiamo perché Egli per primo ha amato noi. 1 Giovanni 4, 19. La grazia di Dio ha suscitato l'amore in noi. La grazia di Dio in noi ha suscitato l'amore per Lui. Come si manifesta quest'amore per Lui? Questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti. Il credente compie quindi il volere di Dio quale risposta alla sua grazia. Non solo. Paolo scrive in 2 Corinzi 5, 14: L'amore di Cristo ci costringe. Il credente è costretto dall'amore a compiere la volontà di Dio. In effetti questo è il tema conduttore che emerge dalle lettere di Paolo, Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in 1 Giovanni 5, 3. Noi manifestiamo d'amare Dio nell'osservare sacrificio vivente. Romani 12, 1. Il credente è una persona conquistata dal comportamento di Dio, perché egli ha usato grazia verso di lui. Possiamo dire che la grazia di Dio ha prodotto in noi l'amore per lui che si esprime nel servizio. Un amore che ci ha conquistato e che ci obbliga a vivere per lui. Ma, col tempo cosa succede? In noi avviene un lento processo per il quale passiamo da un'esperienza basata sulla grazia ad una vita basata sulla legge. In questo modo perdiamo innumerevoli benedizioni. Chi ha posto fede in Cristo ha la peculiarità di avere in sé due nature, una naturale o carnale, una spirituale o nuova natura. Queste due nature sono contrarie una all'altra, perché, come afferma Paolo, la carne ha desideri contrari allo spirito. Galati 5 e 17. La vecchia natura corrotta non viene annullata con la conversione, e così tutte le reazioni negative che hanno ostacolato l'accettazione della grazia della salvezza sono presenti in noi ogni giorno della nostra vita. Ed ecco che noi operiamo, ci diamo da fare, osserviamo i comandamenti di Dio perché pensiamo con tale comportamento di essergli più graditi. Pensiamo, facendo la volontà di Dio, di poterci meritare qualcosa. Ma Gesù comandò di affermare che noi siamo dei servi inutili perché abbiamo fatto ciò che eravamo in obbligo di fare. Paolo, considerando il suo operato, scrisse che doveva predicare perché era un compito affidatogli e non vedeva alcun merito personale nel portarlo a termine. Eppure, nonostante non vi siano meriti in noi, nonostante non siamo per nulla amabili, i nostri atteggiamenti quotidiani ci tradiscono, dimostrano che il nostro vivere è basato sul valore delle nostre opere. Facciamo alcuni esempi. Riguardo alla preghiera. Se un giorno abbiamo realizzato delle vittorie spirituali, ci presentiamo in preghiera a Dio con un atteggiamento di soddisfazione, di serenità. Se invece abbiamo avuto numerose cadute, ci sentiamo in colpa e la nostra preghiera è trascinata. Ci sentiamo insoddisfatti. Non ci sentiamo degni. Perché questa diversità d'atteggiamento nella preghiera? Esiste forse un giorno in cui io sono degno di presentarmi davanti a Dio? No. Perché allora vi sono giorni nei quali ci sentiamo più degni di presentarci davanti a Dio? Perché ci basiamo su quello che abbiamo fatto, confidiamo sul nostro buon comportamento, guardiamo a noi stessi anziché all'opera di Cristo, il quale ci ha accolti per grazia e resi degni di accedere a Dio. È fuor di dubbio che un cammino più vicino a Dio porti i suoi frutti, ma non saranno i frutti da esso scaturiti a renderci più meritevoli di quando eravamo increduli. Riguardo alla cena del Signore. Nessuno di noi è degno per natura di prendere il pane e il vino, perciò se ci accostiamo alla cena del Signore è perché siamo stati accolti per grazia. Se però, pochi minuti prima, abbiamo litigato con il coniuge o con un fratello, non ci sentiamo degni di prendere quel pane e vino. Il motivo è che ci basiamo sui nostri sentimenti e sui nostri comportamenti. Abbiamo dimenticato che noi saremmo sempre in ogni caso indegni di partecipare alla mensa del Signore, anche se abbiamo un comportamento irreprensibile. Siamo degni solo perché Dio ci ha resi degni. La grazia è il gesto benevolo di Dio nei riguardi di quelli che sono più in basso. Essa è indipendente dall'attività umana. Quando un individuo valuta se stesso sulla base di ciò che compie, si pone sotto la legge e non può essere sotto la grazia. Quando si pone sotto la grazia, non può essere sotto la legge. Legge e grazia non possono coesistere riguardo alla salvezza e alla vita cristiana. Purtroppo, il modo di agire per opere, oltre ad essere innato nell'uomo, viene instillato anche dai messaggi di quei predicatori che sono continuamente rivolti ad ammaestrare i credenti circa il comportamento da tenere. Predicatori che invitano gli ascoltatori a considerare maggiormente ciò che fanno di quello che sono. Noi abbiamo un disperato bisogno di indirizzare la nostra mente a comprendere ciò che Dio ci ha donato per grazia, perché il progresso spirituale avviene quando si scopre ciò che si è davvero. non quando si cerca di diventare ciò che si spera di essere. La vita cristiana abbondante non è fare per essere, ma fare perché si è. Perché noi passiamo così facilmente da una relazione fondata sulla grazia a una sotto la legge? Ali tu la tara. Perché nel nostro cuore è radicato il concetto che dobbiamo fare qualcosa per renderci degni di Dio. Questo è l'assunto fondamentale di tutte le religioni. Questo problema delle opere era presente anche fra i primi cristiani. Infatti, nella Chiesa del tempo degli Apostoli, certi giudei, convertiti al cristianesimo, insegnavano che la salvezza si otteneva per la fede nella grazia di Dio, ma unita all'osservanza della legge di Mosè. È molto difficile sradicare dal nostro cuore il sentimento di dover piacere a Dio, per questo la maggioranza dei credenti terminano la loro vita senza aver gustato una relazione di grazia con Dio. B. Inoltre, nel nostro cuore C è una convinzione che non sempre osiamo rivelare. Crediamo di essere migliorati dopo la conversione. Crediamo di essere diventati più virtuosi. Obiettivamente, tante cose sbagliate non le facciamo più. Non bestemmiamo, non malediciamo, non facciamo le nostre vendette. Anzi, ora preghiamo, leggiamo la Bibbia, siamo più fedeli nei nostri compiti quotidiani. È vero che affermiamo di essere dei peccatori, ma non siamo ancora convinti di esserlo alla stregua di coloro che fanno scoppiare le bombe sotto i treni, o di coloro che meritano l'ergastolo, o la pena di morte. Noi non crediamo di essere peccatori al livello del mostro di Firenze. Tra il confessare di essere dei malvagi e l'esserne convinti fino in fondo passa una grande differenza. Lo scrittore cristiano centesimo, S. Lewis, scrive in proposito: se ci prendiamo la briga di esaminarci secondo le regole di santità di Dio, concluderemo che inevitabilmente non siamo semplicemente poco attraenti, ma bensì inaccettabilmente brutti. Ma la grazia di Dio accetta l'inaccettabile. Quando Gesù parla, dà per scontato che noi, i credenti, siamo malvagi per natura, ma fino a quando non saremo veramente convinti, dentro di noi, che questo suo presupposto sia fondato, noi non facciamo parte del pubblico al quale rivolge le sue parole. Ci manca la prima condizione necessaria per capire ciò di cui parla. Ecco perché tanti cristiani possono ascoltare per anni la parola di Dio, senza esserne minimamente scossi. Pensano che il contenuto delle affermazioni di Dio non sia rivolto a loro. Quando Gesù afferma che dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze, Matteo 15 e 19, si riferisce al nostro cuore naturale, quello di tutti noi. Quando il profeta Geremia riconosce che il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, e insanabilmente malato, Geremia 17:9, si riferisce alle nostre inclinazioni corrotte, alla nostra natura malvagia, insita in ciascuno di noi. Dobbiamo convincerci che, quando commettiamo un peccato, come per esempio cedere all'ira, ciò è dovuto al fatto che questa risiede già nel nostro cuore e non che sia stata causata dalla circostanza. Molto probabilmente, per i credenti questa è la verità più difficile da capire e accettare, specialmente per quelli che sono virtuosi. Sì, perché noi abbiamo stabilito che ci siano due specie di credenti, quelli bravi e quelli meno bravi. E, fuor di dubbio, che non tutti i credenti si comportano nello stesso modo, ma per natura sono tutti potenzialmente dei grandi peccatori capaci d'ogni sorta di male. Quindi, va da sé che una classifica basata sul comportamento è insensata. Ho ancora nelle orecchie la risata di una sorella considerata quale credente sopra la media. Un giorno arrabbiata si considerò distrattamente a voce alta. Come si diventa cattivi quando ci fanno arrabbiare? Cercando di aiutarla le dissi: non è che sei diventata cattiva, tu lo eri anche prima. Solo che la circostanza ha reso evidente ciò che c'era nel tuo cuore. Tu sei malvagia per natura. Ci fu un attimo di silenzio, la vidi pensosa, poi fece una sonora risata come chi avesse sentito la più bella barzelletta del mondo. È quasi impossibile per certe persone pie, per certi missionari consacrati, per uomini impegnati nell'opera di Dio, avere la convinzione di essere corrotti al punto d'essere capaci di compiere qualsiasi azione malvagia. Eppure la parola di Dio lo afferma espressamente. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Ecclesiaste 9, 1. Se non siamo onesti con noi stessi, se non vogliamo riconoscere la nostra natura corrotta, noi non inganniamo né Dio né il diavolo, ma solo noi stessi. Per un periodo forse possiamo ingannare gli altri, ma in realtà gli ingannati saremo solo noi stessi. Leggiamo dal libro L'incoraggiamento, di L. Crabb, la seguente riflessione. Satana è assai comprensivo. Ci offre dozzine di strategie per farci sentire bene nei nostri confronti, senza ricercare l'accoglienza in Cristo, la grazia, il denaro, la fama, il potere, la posizione e il lusso. Sono le strategie più ovvie, ma ugualmente efficaci sono quelle più sottili. L'avversione all'esaminare noi stessi, l'affermazione sociale, l'atteggiamento critico, il dogmatismo, la timidezza, la socievolezza. Qualunque cosa ci aiuti a non dover ammettere a nessuno, neppure a noi stessi, chi siamo. Noi abbiamo paura di essere scoperti e di scoprirci per quello che temiamo di essere. Ha scritto Blaise Pascal, senza dubbio essere pieni di difetti è un male, ma è un male ancora più grande esserne pieni e non volerlo riconoscere, perché ciò significa aggiungervi quello di un'illusione volontaria. Noi non vogliamo che gli altri ci ingannino, non crediamo giusto che pretendano di essere stimati da noi più che non meritino, dunque non è neppure giusto che li inganniamo e che pretendiamo di esserne stimati più di quanto meritiamo. Così, quando essi scoprono in noi soltanto imperfezioni e vizi che abbiamo veramente, è evidente che non ci usano nessun torto, perché non ne sono essi la causa. Anzi ci rendono un servizio poiché ci aiutano a liberarci da un male, l'ignoranza di quei difetti. E ancora, non è forse vero che odiamo la verità e coloro che ce la dicono e che ci fa piacere che si ingannino in nostro favore e che vogliamo essere creduti diversi da quel che realmente siamo? Questa si chiama onestà di pensiero. Perché mi sto sforzando di dimostrare che noi per natura siamo irrimediabilmente tutti malvagi? Che la conversione non ha migliorato in santità le nostre inclinazioni malvagie di un millimetro? Perché, senza questo presupposto, non è possibile vivere una vita basata sulla grazia, cioè una vita felice. Se non siamo convinti di essere inguaribilmente malvagi, il nostro cuore non può essere reso stabile dalla grazia. Cosa significa rendere il cuore saldo dalla grazia? Significa che mi devo accostare a Dio sul presupposto della grazia, consapevole di non meritare nulla di favorevole, e, nel caso io chieda qualche cosa, non la chiedo perché nell'intimo penso di meritarmela, ma perché faccio appello alla misericordia di Dio. Questo significa anche che, se Dio mi sottopone a delle prove, proprio me, che lo servo così fedelmente, non ho il diritto né di sentirmi, né tantomeno di mostrarmi offeso, e neppure mi devo sentire trattato ingiustamente, perché sono una persona che non merito di essere esaudito. Devo convincermi che quanto di negativo mi capiti, questo è sempre inferiore a quello che avrei meritato. Questo è il risultato della misericordia di Dio. Ricordiamoci sempre che grazia è ricevere quello che non meritiamo e misericordia è non ricevere quello che meritiamo. Mi direte, va bene, l'ho capito. Anzi, lo sapevo. Sì, è vero, lo abbiamo capito, lo sappiamo. L'atteggiamento che abbiamo verso il peccato però ci dimostra il contrario. E questo a rivelare se, concretamente, io vivo per grazia. Gli studiosi affermano che l'uomo ha 5 istinti che gli permettono di vivere. Uno di questi è l'istinto di conservazione, d'autodifesa. Quest'istinto precede la conoscenza, in altre parole, non dipende da quello che uno conosce, Infatti, un bambino quando cade mette per istinto in avanti le mani. Il modo in cui noi usiamo questo istinto d'autodifesa quando pecchiamo rivela quanto basiamo la nostra vita sulla grazia di Dio. Quando Dio ci rivela una nostra caratteristica negativa, per istinto, cerchiamo di nascondere il male, giustifichiamo il nostro comportamento, cerchiamo di mascherare la verità. Vogliamo, così, evitare l'umiliazione di confessare come stanno le cose? Un tale comportamento cosa produce? Oltre ad ingannare noi stessi, ci impedisce di sperimentare la grazia di Dio, il suo perdono, e quindi di trovare quella gioia prodotta solo dalla grazia. Abbiamo considerato che la salvezza per grazia ha prodotto in noi l'amore, la gioia, il timore, il servizio. Afferma il salmista, se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso te vi è perdono, affinché tu sia temuto. Salmo 130, 3-4. Perché noi cristiani viviamo schiacciati da dei pesi che non riusciamo a deporre? Perché non sperimentiamo la gioia divina? Perché la vita cristiana è stentata? Perché non siamo liberati dalle catene di vizi e peccati? Voi direte, perché non siamo sufficientemente santi? No, la risposta è un'altra. Perché non siamo sufficientemente convinti di essere malvagi? Perché non confessiamo questa malvagità a Dio per trovare grazia al momento opportuno? Non è la caduta nel peccato che frena il cammino del credente, non è la sua natura malvagia, ma la mancata esperienza della grazia di Dio. E il perdono che ci rende veramente felici, ma per essere perdonati occorre riconoscere e confessare la colpa. Un uomo che realizza una vita basata sul perdono di Dio vive una vita vittoriosa, abbondante. Il Salmo 51 è forse uno dei più conosciuti perché in esso Davide confessa l'adulterio e l'omicidio commessi. Ma dopo aver riconosciuto di avere una natura malvagia, dopo aver trovato perdono, egli afferma: «Insegnerò le tue vie ai trasgressori». Visti i peccati commessi, con quale coraggio Davide poteva insegnare ai trasgressori? Con quale presunzione poteva pensare di servire il Signore e insegnare agli altri come vivere in santità? Per una sola ragione, egli aveva sperimentato il perdono basato sulla grazia di Dio, un perdono immeritato. Conosco dei credenti che sono caduti nel peccato d'adulterio, al pari di Davide, senza però essersene più rialzati. Perché? Perché non vivevano per grazia. E non si sono accostati a Dio dopo la caduta per ricominciare per grazia. Purtroppo, a volte è necessario commettere dei grossi sbagli per capire la grazia e la misericordia di Dio. Ricordate la peccatrice in casa di Simone, il fariseo che bagnava i piedi di Gesù e li asciugava con i suoi capelli? Simone era stupito che Gesù la lasciasse fare, ma Gesù ancora una volta prese spunto da questo episodio per insegnare. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato poco ama. Hai capito ciò che Gesù disse? Sai perché vi sono pochi servitori del Signore? Sai perché sono rari i credenti impegnati nella Chiesa? Sai perché sono pochi i credenti consacrati a Dio? Perché hanno dimenticato che sono stati salvati per grazia. Perché non hanno toccato il fondo del peccato? Perché non hanno sperimentato la gravità del peccato? Essi amano poco perché non sono coscienti di essere stati grandemente amati. Spero di non essere frainteso, ma a volte desidererei che certi credenti commettessero peccati gravi, al fine di potersi vedere per quello che sono. Potrà sembrare assurdo, ma ci è una presunta santità che impedisce al credente d'amare Dio e Tito Trerigraca. Vi sono dei credenti tanto santi da essere insopportabili. Come disse qualcuno, vivere con un santo è molto più estenuante che esserlo. Perché questa contraddizione? Perché questi credenti non hanno capito la grazia di Dio, giacché non hanno fatto l'esperienza del figlio prodigo. Essi sono simili al fratello del figlio prodigo, che, pur dimorando sempre con il padre, aveva il suo cuore pieno di ira, di rancore, d'amarezza, d'invidia, d'incomprensione. Alla fine il suo moralismo e il suo brutto carattere si sono scontrati con la grazia di suo padre e si sono rivelati nella loro realtà. Le nostre reazioni emotive, in alcune circostanze, rivelano di più il nostro egoismo e i nostri peccati nascosti piuttosto che tanti anni di santità. Un fratello venne da me tutto mesto, manifestando un profondo senso di indegnità per aver commesso un grave peccato. Poi attese il mio giudizio. Io mi limitai a dirgli: «Io prego Dio perché tu possa mantenere questo sentimento di indegnità davanti a Dio e vivere al suo cospetto per grazia. Per Dio il peccato non è un problema. Sfrutta quindi questa tua esperienza negativa per basare il tuo rapporto con Lui sulla grazia e insegna agli altri il valore di una vita alle dipendenze della misericordia di Dio. Sì, per quanto il peccato sia grave, non è nulla in confronto a ciò che può produrre la grazia di Dio in una persona. Ho letto tante testimonianze d'uomini di Dio che sono diventati tali solo dopo aver toccato il fondo dell'immoralità. È vero, il peccato è stato abbondante, ma la grazia sovrabbondante, che nessuno, dopo aver commesso dei peccati più o meno ripugnanti, stia a rodersi il fegato o a piangere sul latte versato, ma avvolto dalla grazia di Dio possa egli correre verso il premio che Dio ha preparato per coloro che lo amano. La grazia può essere tale solo quando vi è coscienza di non avere alcun merito. Se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più per grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Romani 11:6. L'opera e la grazia sono in contrapposizione. La ricompensa è il risultato dell'opera, il dono immeritato è il risultato della grazia. Arrivare ad avere un rapporto con Dio basato sulla grazia è una conquista che pochi credenti riescono a raggiungere. L'Apostolo Paolo ha realizzato la piena sufficienza della grazia di Dio quando pregò 3 volte di essere guarito, e Dio gli rispose: «La mia grazia ti basta». Ricevere la grazia è già una grande esperienza. Ma che questa basti è una conquista non indifferente. Ancora Lewis: non appena arriviamo a credere che Dio ci ama, subito nasce l'impulso a credere che ciò avvenga non perché egli è l'amore, ma perché noi siamo intrinsecamente amabili. Così, scavando in profondità sotto a tutti i nostri cavilli, aleggia ancora la vaga convinzione di possedere un certo fascino personale. Avere quindi il cuore reso saldo dalla grazia significa vivere ogni giorno con la consapevolezza di non meritare ciò che possediamo, salute, casa, figli, affetti. Vivere per grazia significa essere consapevoli di chiedere a Dio ciò che non meritiamo e che quindi riceviamo da Lui solo per grazia. La mia vita allora sarà un continuo canto di lode, di adorazione e di riconoscenza, e dirò in ogni momento come il salmista: egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Salmo 103:10. Ciò che manca ai cristiani non è tanto lo zelo, i doni spirituali, quanto la riconoscenza. E la riconoscenza può scaturire solo dalla consapevolezza di essere salvati e vivere per grazia. La mia vita allora sarà un servizio per Dio, non perché il servizio cristiano è il pagamento della grazia di Dio, ma perché esso è il modo con il quale io esprimo la mia devozione e il mio amore per Dio. Infatti così si è espresso l'autore della lettera agli Ebrei: perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Ebrei 12:28. Senza gratitudine, qualsiasi servizio per Dio è un'opera tesa a farci diventare meritevoli e, come tale, non può essere accettevole. Viviamo sulla base delle opere anche quando consideriamo in un certo modo i risultati del nostro operato. Noi pensiamo che l'essere benedetti sia il risultato del fare la volontà di Dio e quindi, in fondo, che ce lo meritiamo. L'amore di Dio ci impedisce di fare i calcoli fondati sul fare, sul meritare. Gesù ci ha insegnato che quando abbiamo fatto tutto quello che ci era comandato, dobbiamo dire: noi siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Lo diciamo con la nostra bocca? È già un dono di Dio poter dire d'essere suoi servi. Noi spesso facciamo i calcoli del nostro servizio per il Signore in base anche al successo o alle benedizioni. Ma la grazia di Dio opera in un modo diverso. Quando Israele tentò l'Eterno per 10 volte, vagò per 40 anni nel deserto. Ma l'Eterno Dio continuò a proteggerli di giorno per mezzo della nuvola e di notte tramite una colonna di luce. I loro vestiti inoltre non si logorarono, i loro piedi non si gonfiarono, anche se di quella generazione era sdegnato. Ebrei 3.10. Quando Mosè disubbidì perché doveva parlare al sasso anziché percuoterlo, l'Eterno fece ugualmente scaturire l'acqua dalla roccia. Davide commise i peccati d'adulterio e d'omicidio, eppure in seguito conquistò la città di Rabba. Una vittoria allora strepitosa. Se noi calcoliamo le nostre benedizioni sulla base della nostra fedeltà, stiamo camminando in base alle opere. Il nostro Dio continua a farci del bene anche quando noi siamo ingrati. Rimane fedele anche quando noi siamo infedeli. 2 Timoteo 2:13. Forse è questo uno dei motivi per cui i cristiani non si ravvedono dai loro errori e non si rendono conto di quanto sono malvagi. Che noi possiamo vivere per grazia come per grazia siamo stati salvati. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede. Come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Colossesi 2, 6-7. Come abbiamo ricevuto Gesù? Per grazia. Come dobbiamo camminare in Gesù? Per grazia. La vita cristiana inizia nella grazia, continua per grazia e viene completata dalla grazia. Se siamo coscienti di questo, abbonderemo in ringraziamenti. La grande tradizione dei credenti ci ha tramandato questa strana espressione. Felix culpa. Felice colpa, che ci induce all'umiliazione, al ritorno a Dio e alla direzione esatta, che sono la prova stessa della grazia. Conoscere Dio, ritrovarlo continuamente e comprenderlo meglio anche a prezzo dei nostri errori è il senso della vita secondo la Bibbia. Non chi è vita senza oscillazioni, e questo gioco continuo di deviazioni e correzioni serve da freno alla vita. Nello stesso modo non c'è, è vita senza peccato, fede senza dubbio. E questo ciclo di peccato e di grazia, di dubbio e di fede, di lontananza da Dio e di riscoperta di esso, costituisce ciò che noi chiamiamo vita spirituale. Paul Tournier. Il peccato non deve essere per noi un problema o un peso da portarci dietro ogni giorno. Ebrei 12.1. Non deve essere un impedimento per servire Cristo. Dio lo ha risolto una volta per sempre, sulla croce per mezzo di Cristo, e continuare a portare il peso del peccato che abbiamo commesso o che commetteremo disonora sia Dio sia Cristo Gesù. Se noi riconosciamo e confessiamo la nostra natura malvagia guardando alla grazia di Dio, se siamo coscienti dei nostri peccati quotidiani e confidiamo nel perdono già offerto da Dio, sperimenteremo la gioia della grazia di Dio e la trasmetteremo anche agli altri. La grazia impedisce che il peccato rallenti la nostra corsa verso il premio. La grazia fa sì che i nostri occhi siano sempre su Cristo e non su di noi. La grazia ci fa gioire di quello che Dio è e fa in noi e non guardare quanto siamo malvagi. La grazia fa sì che serviamo i fratelli, soprattutto quando non siamo ricambiati. La grazia rende il futuro presente, perché cominciamo ad avere ora con Dio la relazione che avremo per l'eternità. Ricordiamoci 3 cose. 1. Nel Nuovo Testamento la dottrina è grazia e l'etica è grazia. Noi sappiamo di vivere per grazia quando il nostro servizio è reso per gratitudine e non per paura o per ottenere altro. 2. Grazia è ricevere quello che non meritiamo, mentre misericordia è non ricevere quello che meritiamo. 3. Il Signore resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Molte difficoltà, molti problemi, molte sofferenze avvengono perché non stiamo vivendo per grazia. Se non viviamo per grazia, Dio ci resiste con le circostanze sempre avverse e la mancanza di gioia. 1 Pietro 5:5. Allora, E bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia. E bene, perché ogni altra ragione che rende il nostro cuore forte è vana, inutile, debole, inefficace. E bene, perché è l'unico modo per essere vittoriosi e felici. Se siamo stati salvati per grazia, non vi è modo migliore di onorare Dio che vivere per grazia. Se siamo stati salvati per grazia, relazioniamoci con il prossimo per mezzo della grazia. Questo sarà il prossimo tema. L ha grazia in relazione al prossimo. E' bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia Ebrei 13, 9. Accoglietevi come Cristo vi ha accolti Romani 15, 7. Ho iniziato la prima parte di questo studio con la seguente affermazione di Roy S. Innen. Se manchiamo su questo punto, sbagliamo tutto. Abbiamo preso atto di quanto sia vera questa affermazione perché, se il cuore non è reso sicuro dalla grazia di Dio, noi perdiamo innumerevoli benedizioni, nonché la gioia e la pace di Dio. Abbiamo considerato che la grazia di Dio ci impedisce di fare dei calcoli perché Lui benedice gli uomini, anche se non lo meritano. Dio fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi. Il sole non splende solo sui buoni, ma su tutti. Qualcuno mi farà notare che esistono delle benedizioni quando si fa la volontà di Dio. È vero, ma esse non sono benedizioni che abbiamo meritato, bensì la conseguenza di una legge. Ora mi spiego, citando tre proverbi. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima, la riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà. Proverbi 2, 10-11. Acquista sapienza, acquista intendimento, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene. Non abbandonare la sapienza ed essa ti custodirà. Proverbi 4, 5-6. La sapienza custodisce colui la cui via è integra. Proverbi 13, 6. Abbiamo compreso cosa ci sta insegnando il Signore. Egli ci dice che se noi facciamo tesoro dei Suoi insegnamenti, questi ci proteggeranno dal male, ci custodiranno. Dio non ci sta promettendo che ci benedirà perché siamo stati fedeli, altrimenti queste benedizioni sarebbero frutti di un'opera, ma che le benedizioni sono la conseguenza del camminare nelle vie di Dio. Se io mi espongo al sole, divento abbronzato non per quello che ho fatto, ma perché il sole ha la proprietà di abbronzare la pelle. Non ho compiuto nessun'opera per cambiare colore, ma ciò è il risultato dell'essermi esposto al sole. Così se sto alla presenza di Dio ne ricevo del bene, ma non scambiamo questo bene per un premio alla mia fedeltà. Essere salvati per grazia non significa essere arrivati a conoscere la grazia di Dio, ma è l'inizio per crescere nella conoscenza di questa grazia. 2 Pietro 3 e 18. Abbiamo compreso che sebbene abbiamo sperimentato la salvezza per grazia, presto ce ne dimentichiamo e cadiamo in una vita condotta dalla legge. Purtroppo questo rapporto sbagliato con Dio si riflette anche nel rapporto con il nostro prossimo. Vogliamo essere accettati per opere e non per grazia. Questo studio ha lo scopo di far evitare ai credenti questo errore. Leggiamo nella prima lettera di Giovanni 4, 10-12. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il Suo amore diventa perfetto in noi. Giovanni afferma che è stato Dio a prendere l'iniziativa di amarci, dandoci ciò che aveva di più caro, Suo Figlio. In seguito ci comanda di amare il prossimo in questo modo, prendendo in pratica l'iniziativa di amare il prossimo. Amare il prossimo vuol dire accettarlo così com'è. Accettare il prossimo così come si presenta è un atto di grazia e di misericordia. Questo è l'aspetto più difficile della comunione fraterna. Noi vogliamo essere amati per quello che facciamo e non per quello che siamo. In fondo, sappiamo molto bene di non essere delle persone amabili, almeno spero che ce ne siamo resi conto. Sapendo di non essere amabili, cerchiamo di essere accettati e considerati per quello che facciamo. Questo ci porta e ci costringe a fare, a vivere, cioè sulla base delle opere. Questa è la ragione per la quale molti credenti sono insoddisfatti o vanno in crisi. E sì, vogliono essere amati per quello che fanno e non per il semplice motivo che sono dei figli di Dio. Questa aspirazione produce un paradosso. Dato che nessuno è perfetto, di conseguenza nessuno può essere veramente amato per quello che è. E poiché noi siamo abituati ad amare ciò che è amabile, ciò che è attraente, poiché pensiamo che anche gli altri si comportino come noi ci comportiamo, allora non siamo mai sicuri di essere amati, perché siamo coscienti di non essere amabili. Al limite pensiamo di essere amati a riguardo delle nostre virtù, ma quando qualcosa non va per il verso giusto, cadiamo nello sconforto. Noi ci relazioniamo con il prossimo sulla base delle opere. Prendiamo l'esempio del fidanzamento e del matrimonio. Noi scegliamo una persona perché ci piace, perché è bella, perché ha delle doti che corrispondono ai nostri gusti. In pratica amiamo una persona per quello che è fisicamente, o per quello che fa, o per il bisogno che ha di essere amata ed amare. Nulla di sbagliato. È la giusta prassi della vita finché siamo ancora su questa terra. Noi non siamo degli angeli. Un amore basato su questi presupposti, però, non può durare molto. Il fascino della bellezza finisce, si scopre che altre persone più giovani sono più attraenti del coniuge. Col passare del tempo non si riesce più a fare le cose che si facevano prima e, a volte, avvengono dei mutamenti drastici. Anche lo scrittore apologeta Lewis fa coro. Noi desideriamo essere amati per la nostra intelligenza, bellezza, generosità, belle maniere e utilità. Non appena ci accorgiamo invece che qualcuno sta offrendo il più alto di tutti gli affetti meno la carità, meno siamo colti da un autentico malore. I quattro amori. Due esempi. A. Due sposi di ritorno dal viaggio di nozze hanno avuto un incidente d'auto. Lui perde la vista. E la mogliettina si ritrova a convivere con un cieco. B. Poco dopo il matrimonio, un marito si ritrova con la moglie invalida, causa una grave malattia. Cosa fare? Divorziare, separarsi? È l'unica soluzione se ci si è sposati unicamente attratti dalla bellezza e dalle qualità fisiche. In certe situazioni possiamo anche capire le scelte inopportune, ma cosa dire di quei matrimoni che vanno in rovina anche in mancanza di situazioni così drastiche? Del che aumentano i divorzi? Perché si continua a voler mantenere il vincolo matrimoniale sui presupposti del fidanzamento? In altre parole, ti amo perché sia un matrimonio basato sulle opere, quando un coniuge si dà da fare perché l'altro l'ami o lo accetti. Questa è la causa di tanti matrimoni infelici. Il matrimonio sta in piedi ed è riuscito se si rimane fedeli all'impegno preso di relazionarsi per grazia, cioè di amarsi nonostante tutto, amare ciò che non è amabile. Il fatto è che nessuno di noi desidera essere amato per grazia, perché questo umilia. Noi vogliamo essere amati per quello che facciamo, o per quello che pensiamo, o che addirittura vorremmo e fingiamo di essere, cioè delle brave persone. Non dico perfette perché sarebbe da parte nostra insensato, ma nemmeno indegne di essere amate. Chi di noi pensa d'essere degno di non essere amato? Può pensarlo solo qualcuno che ha fatto un grosso torto, ma grosso. Qualcuno che ha bevuto alla feccia dell'immoralità, ma largamente. Eppure, la parola di Dio insiste ovunque nell'affermare che il rapporto fraterno e sociale deve essere basato sulla misericordia, sulla grazia. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Efesini 5:25. Che significato racchiude questo comandamento? Spesso viene posta l'enfasi sui doveri del marito. E ciò non è sbagliato. Ma il comandamento racchiude anche un significato molto più ampio. Come ha amato Cristo la Chiesa? Era degna di essere amata? No, Cristo ha agito per grazia. Quindi, quando ai mariti è chiesto di amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, significa che essi devono amare le mogli per grazia. Perché? Basta guardare a come è composta la Chiesa. Essa è composta di persone malvagie per natura, Se Cristo avesse dovuto amare la Chiesa perché questa lo meritava, non sarebbe morto per essa. Così è per i mariti. Se essi dovessero amare le mogli perché sono meritevoli, non lo farebbero. Ma facendolo per grazia le possono amare ogni giorno. Mogli, rispettate i mariti. Efesini 5:33. Quale significato racchiude questo comandamento? Il rispetto va riconosciuto al marito perché egli è il capo, non perché sia ineccepibile. Altrimenti, nessun marito sarebbe degno di essere rispettato. Paolo ordinò ai romani di essere sottomessi alle autorità all'epoca in cui regnava Nerone. Era Nerone degno di essere rispettato? Rappresentava forse l'uomo ideale? No, eppure bisognava rispettarlo. Così le mogli devono rispettare il marito. E se lo fanno per fede e per grazia, non perché il marito lo meriti. Dobbiamo amare il coniuge, non perché egli sia bravo, buono, gentile, educato, ma nonostante egli non rispecchi quelle che sono le nostre aspettative o i nostri desideri. Questo è il vero amore. Un matrimonio felice è l'unione di due persone che perdonano volentieri. Si perdona solo se si è convinti d'essere peggiore dell'altro, o almeno sullo stesso piano. Un coniuge che non sappia perdonare, non ha capito e non vive la grazia di Dio, se non sa perdonare rompe il ponte sul quale egli stesso deve passare. Questo atteggiamento vale per tutti i settori della vita. In merito al rapporto tra figli e genitori, quanti figli si sentono amati solo perché sono bravi? E un grave errore quando un genitore afferma: se fai così, non ti vorrò più bene. In questo modo insegniamo ai nostri figli che l'amore che ricevono è condizionato da quello che fanno, cioè dalle opere. Se non abbiamo capito e quindi non realizziamo ogni giorno la grazia di Dio, non siamo in grado neppure di trasmetterla ai nostri figli. E che dire dei figli che per tutta la vita cercano di essere amati dai genitori con mille spedienti? La soluzione a questi problemi è una sola: essere coscienti di essere amati da Dio per grazia. Chi si rende conto di essere amato non cerca di essere apprezzato. Il cristianesimo non è un concetto filosofico, ma una realtà da vivere. Così vale per la comunione fraterna. Noi dobbiamo amarci non per quello che facciamo, ma perché siamo amati da Dio. Se Dio si è degnato di amarti, chi sono io per non farlo? Come Cristo vi ha perdonati, così fate pure voi. Colossesi 3:13. Noi siamo figli di Dio, siamo stati accettati da Dio per grazia, quindi dobbiamo accettarci, perdonarci e amarci per grazia. Ancora una volta vorrei ricordare che essere amati per grazia è umiliante, ma non possiamo pretendere che i nostri fratelli siano migliori di Dio. Nel suo libro Il problema della sofferenza, C.S. Lewis scrive: è meschino ammainare la nostra bandiera davanti a Dio quando la nave affonda, è meschino rivolgersi a Lui come l'ultima speranza di salvezza, offrirgli ciò che è nostro quando ormai non vale più la pena di tenerlo. Se Dio fosse orgoglioso, certo non ci accetterebbe a queste condizioni. Ma non è orgoglioso, si abbassa per conquistare. Ci vuole avere anche se abbiamo mostrato di preferire ogni altra cosa a Lui, e anche se ci rivolgiamo a Lui solo perché non abbiamo trovato niente di meglio. Non è certo un complimento per Dio che noi lo scegliamo come alternativa all'inferno, eppure Lui accetta anche questo. Se Dio ci accogliesse, se non quando andassimo a Lui partendo dai motivi più puri e migliori, chi potrebbe essere salvato? Che riflessione! Mi umilia profondamente, e noi ci sentiamo offesi ogni volta che ci trattano come l'ultima alternativa. Quale ragazza si farebbe scegliere come ultima alternativa da un ragazzo? Quale coniuge sarebbe contento di essere scelto come ultima alternativa per fare una passeggiata? Un giorno fu chiesto ad un fratello di predicare perché chi doveva farlo non era presente, ed egli rispose: non voglio fare il tappabuchi. E il nostro orgoglio che ci impedisce di realizzare la gioia della grazia. Il nostro senso di perbenismo diventa un nemico per le relazioni con il prossimo. Riguardo alle offese, possiamo comprendere di basarci sulle opere anche per certe nostre reazioni alle offese ricevute. Noi diciamo di essere dei peccatori, dei malvagi, ma quando qualcuno ci fa notare un nostro difetto, subito ci offendiamo perché ci sentiamo feriti nel nostro onore. Quale onore? Se non siamo né amabili, né apprezzabili, né desiderabili. Un giorno una sorella mi ha salutato dicendomi: «Ciao Ellero, Dov, è la parte migliore di te?» E... stata una battuta sferzata al mio orgoglio. Ma è vero. Paolo confidava a suo figlio spirituale: «Io sono il primo dei peccatori», 1 Timoteo 1, 15-17. Chi di voi ha mai fatto questa confessione ad un suo amico intimo? È una rivelazione di Dio. Un uomo che ha questa opinione di se stesso non si offende tanto facilmente. È Dio che ci deve rivelare quello che noi siamo. Preghiamo con il salmista: «Signore, fammi conoscere quanto sono fragile». Salmo 39, 4. Senza falsa umiltà, confesso che Dio mi ha rivelato di essere il peggiore dei peccatori. Come? Perché in questi anni ho parlato con molte persone di problemi personali, morali, familiari, psicologici, ma non ho trovato nessuno peggiore di me. Anzi, ho visto in molte persone certe virtù che io non ho e che desidererei avere. Per quanto mi riguarda, mi rendo conto che posso commettere tanti peccati orrendi e pertanto difficilmente avrò un'alta un'opinione di me stesso. Ho letto una bella preghiera che una sorella virtuosa ha scritto nella sua Bibbia. Essa diceva: «Oh Signore, aiutami a non sentirmi brava, a non sentirmi meglio degli altri, a non sentirmi meritevole verso di te». Una preghiera del genere può scaturire solo da una persona che pensa di avere delle qualità. In effetti era la preghiera di una persona virtuosa e assennata, ma chi è cosciente di essere malvagio e che le virtù che possiede sono esclusivamente opera dello Spirito Santo, molto difficilmente peccherà di orgoglio o pregherà di non inorgoglirsi. Quale pericolo corrono i virtuosi? Il pericolo dell'inferno, dove regna l'orgoglio. Spesso quando soffriamo per un'offesa reale o immaginaria diventiamo pericolosi. Perfino un cane, fedele al suo padrone, quando è ferito tende a morderlo. Troppa gente pesa ogni parola che non ha gradito sul bilancino dell'orefice e in questo modo vive una vita cristiana stentata e sempre indifesa. Vita misera per persone misere che potrebbero vivere da ricche. Un giorno una sorella, giovane nella fede, si lamentava con me di come era trattata. Parlò per un'ora, raccontando tante cose che non andavano. Dopo aver ascoltato per tutto il tempo senza dire una parola, come è mia abitudine, le risposi con una sola riflessione: «Tutto dipende tutto dall'opinione che hai di te stessa». Tacque di colpo. Dopo molti mesi mi disse che quella risposta era penetrata nel suo cuore, talmente in profondità che, da allora, i suoi rapporti col prossimo erano cambiati. Noi non abbiamo bisogno di molte parole per risolvere i nostri problemi, abbiamo bisogno di verità che colpiscano il segno. La verità che colpisce il segno è che la Chiesa è tiepida, non perché sia mancante nell'evangelizzare, non perché non studi la parola di Dio, ma perché non è sufficientemente convinta di peccato dallo Spirito Santo. Questo è il dramma più grande della Chiesa di tutti i secoli. Non arroghiamoci il diritto di sentirci offesi quando qualcuno ci tratta ingiustamente. Dovrei forse rinunciare alla rabbia, all'amarezza, al ricordo di quello che mi è stato fatto? Mai ho il diritto di provare questo dolore. Questo perché esiste una specie di godimento nel dolore. In un certo senso è bello essere martiri per una causa della quale altri sono colpevoli. La continua denuncia può dare soddisfazione. Dobbiamo uscire fuori da questo circolo vizioso e amare il prossimo. Se amate coloro che vi amano, che premio ne avete? Non fanno altrettanto anche i pagani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pagani? Se il nostro amore è uguale a quello di chi non conosce Dio, non facciamo niente di speciale. Non ci comportiamo come figli di Dio. Noi esseri umani abbiamo tutti una capacità affettiva di amare i figli, i parenti, coloro che ci amano. Ma non è questo l'amore che intende Dio. non scambiamo gli affetti naturali con l'amore che scaturisce dalla grazia. Come disse Carlo Finney, fino a quando i cristiani non avranno motivi più elevati nell'offrire la preghiera, fino a quando non si elevi al di sospiri di tenerezza materna e paterna, fino a quando non saranno spinti da sentimenti di simpatia, le loro preghiere e le loro fatiche avranno ben poco effetto. È naturale per un innamorato amare la sua ragazza, ma quando i sentimenti finiscono, finisce anche l'amore. L'amore allora è un sentimento? No, l'amore produce anche un sentimento, ma l'amore che procede da Dio è l'impegno di cercare il bene del prossimo. Di fronte al male noi abbiamo l'occasione di dimostrare il vero amore. Un tempo vedevo le ingiustizie come tanti ostacoli alla mia vita spirituale. Ora vedo il male come un'occasione per amare. Vedo tutto ciò che è negativo come una sfida per vivere in pieno la vita cristiana. Se ci offendiamo, se ricambiamo con l'odio o con il meno non amore meno, perdiamo l'occasione di realizzare la grazia. La grazia opera solo quando qualcuno non è degno di essere amato. Quando non è amabile, diversamente non è più grazia, ma merito. Quale sfida Dio ci pone di fronte? È anche vero che amare i nemici o le persone non amabili spesso non risolve il problema, ma ci salva dall'amarezza e dal risentimento, e soprattutto proviamo la gioia di perdonare come noi siamo stati perdonati. Solo così siamo perfetti come è perfetto il Padre nostro. E bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia. E bene, perché ogni altra ragione che rende il cuore forte è vana. Se lo Spirito Santo ci ha convinti di essere in grado di compiere tutto il male che esiste sotto il sole, se siamo convinti che, dopo aver fatta la volontà di Dio, noi siamo sempre dei servi inutili, allora il nostro rapporto con il prossimo sarà basato sulla grazia. E chiunque incontreremo o entrerà a far parte della comunità si sentirà a casa sua, perché si troverà peccatore fra peccatori, si sentirà accettato come Cristo ha accettato noi. Accoglietevi come Cristo ci ha accolti. Romani 15:7. Come ci ha accolti Cristo per grazia. Solo in questo modo noi produciamo nella Chiesa una reazione d'amore a catena. Come l'amore disinteressato di Dio basato sulla grazia ci ha spinti ad amarlo, così il nostro amore disinteressato, rivolto al fratello, lo spinge ad amarci. Se la grazia di Dio ha prodotto in noi l'amore per Lui, la grazia verso il prossimo susciterà l'amore verso di noi e nei confronti degli altri. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni e gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. 1 Giovanni 4:11-12. Questo è il cristianesimo. Salvati per grazia, amiamo per grazia. Ho fatto mia una bellissima preghiera di Blaise Pascal. Amo la povertà, perché egli l'ha amata. Amo i beni di fortuna, perché danno il mezzo di assistere i miseri. Servo fedeltà a tutti, non rendo il male a coloro che ne fanno, ma auguro loro una condizione simile alla mia, nella quale dagli uomini non si riceve né bene né male. Mi studio di essere giusto, veritiero, sincero e fedele con tutti gli uomini, e ho una tenerezza di cuore per coloro ai quali Dio mi ha più strettamente unito, e, sia che mi trovi solo o al cospetto degli uomini, ho in tutte le mie azioni davanti agli occhi Dio che le deve giudicare, e al quale le ho tutte consacrate. Ecco quali sono i miei sentimenti, ogni giorno della mia vita benedico il mio Redentore che li ha messi in me, e che è vinto andi un uomo pieno di debolezza, di miserie, di concupiscenza, di orgoglio e di ambizione, ha fatto un uomo esente da tutti questi mali in virtù della sua grazia, al quale è dovuto tutto il merito, non avendo io da me stesso se non la miseria e l'errore. ILPERDONOCIOMEMEZZODILIBRAZIONE. Chi non sa perdonare rompe il ponte sul quale egli stesso deve passare. Il perdono cristiano non è indulgenza. L'indulgenza è uno sforzo, tende a cercare le circostanze attenuanti. Tende a scolorire le offese, a mentire in qualche modo a noi stessi, a fare violenza alla propria coscienza per scusare gli altri. Il perdono è un miracolo. Chi perdona guarda il male in faccia.